Ma se al fin ti trovo il cor, ti trovo ancor, Dio me saudì. c'è siel cortese in vivo, rama vi son barone, d'averlo pure gradito. Fermove qui, il vedete? Che non è vero, il vero. A voi non un sol detto, si volga questo Alfredo. Non un detto, non un detto. Come mi viene pietà grandio, pietà grandio di me. Ecco, ma sigi, narrami, quai novità peggio. Quattro, ancora hai vinto, sfortuna nell'amore, fortuna recca il gioco, è sempre vincitore. O vincerò stasera, e l'oro va bagnato, o sciago dentro ai corpi, ritornerò beato. Solo? No. Parole m'appellaste, siete sì gran fortuna che al gioco mi tentaste. Sì, la visita c'è. Alla manca cento, un asso, un fante, hai vinto il doppio sia, un quattro, un sette, ancora pur la vittoria mia. Bravo davvero, sorte, è tutto per Alfredo. Hai miglior la spesa, hai baronte il vino. Seguite pure, la cena è pronta. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. E via, pietà grandio, pietà grandio di sé. Se continuar m'aggrada, per ora non possiamo. Più tardi la rivincita al gioco che vorrete. Seguiam gli amici. Poscia sarò qual brave. Andiamo. Partirò, ma giù è in ante, e lo unto. da un nome che infamano va mi lascia sul verdore fuggirne giuramento sadrio feci a chi? Dillo chi potea? A chi dritto piena vea? Fu tu fare? Sì dunque ami ben l'amo or tutti a me questa donna conoscete che facesse non sapete oh taci ogni sua ver tal femmina per amor mio spertea io cieco vile misera tutta accettar papea ma tempo ancora tergermi davanti a me che avramo guita stima Testiman vi chiamo, or testiman vi chiamo, che qui, e qui pago l'alma più non ragiono da lei perdono più non avrò volle a fuggirla non ho potuto dall'ira spinto son qui venuto orché lo sdegno ho disfogato m'è sciagurato rimorso Rosna Oh,

palpito sia fermo in pa senza desistere più non potrei ma sangue in vetro mai li donata per li concedere poi di nuovo scorda l'affanno donna volata a me perdona il genitor io ne perdoni l'aria son io ma solo amor venir in te l'uomo debole angel mio mai più dividermi potrà da te tutto il futuro ben saprai. Ma tu Di padre mio, di più non lo cerchi, troppo rimorso nel 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听。